day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees. Ciao eutopiste e utopisti, sempre nell'attesa delle vostre riflessioni, suggestioni, insinuazioni, questa sera comunque continuerò ancora a proporvi le mie incertezze. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Sì, perché forse niente è più certo dell'incertezza. Sembra che l'epoca attuale stia rievocando il caos, ma speriamo per riviverlo alla luce della coscienza. In realtà ci troviamo a vivere un quotidiano che si estende in spazi completamente opposti e che simboleggia un paesaggio culturale, sociale e politico, dalla separazione specialistica alla molteplicità. È quindi vitale e urgente porre la necessità di una rivoluzione di pensiero che faccia sorgere un pensiero complesso, capace di associare ciò che è disgiunto e concepire la multidimensionalità di ogni realtà antroposociale. Per rompere con l'obnubilamento, vedi che siamo già obnubilati, già la parola lo dice, e le carenze di un pensiero semplicistico che non sa che disgiungere e ridurre, mutilare e devastare tutti i settori della conoscenza e dell'azione. È questo bisogno di complessità che ha cominciato a farsi sentire nelle scienze avanzate e nelle arti, deve assolutamente condurre la sua battaglia sul piano del pensiero sociologico e politico, verso una nuova struttura di pensiero che inizia a cercare di includere in ogni osservazione l'auto-osservazione, in ogni esame l'auto-esame e introdurre in ogni conoscenza la volontà di autoconoscenza del conoscitore, secondo concetti stabiliti sulla mutazione piuttosto che sulla fissità, sulla probabilità piuttosto che sulla certezza, per scoprire la relatività della verità, per concepire la complementarità di tutto ciò che sembra solo antagonista e l'antagonismo in ciò che sembra solo complementare. Ma come direbbe Edgar Morin, tutto questo non può essere deciso, regolato con semplice decreto. Abbiamo bisogno di un nuovo metodo di pensiero, più ricco e complesso dei metodi ancora oggi sovrani. Iniziamo allora a riflettere sulla comunicazione, verso una sorta di metacomunicazione che può renderci più attenti alla complessità essenziale di tutto ciò che ha un doppio, triplo livello di interpretazione, la realtà in sostanza, perché ridurre le ambiguità comporta spesso grandi derive, come quelle che vive l'umanità in questo stesso momento: guerre, povertà, pestilenze, ricchezza, benessere, surplus. Il pianeta stesso, nella sua suddivisione, sembra avere scelto un cieco ed accecante manicheismo. Le monde est une petite putain qui roule sa bosse pour le pétrole. Les valeurs sûres, moi j'y crois plus, l'amour total tout est perdu. Si tu t'en sors, c'est que t'as du bol, nos pauvres vies sont en péril. On dépend tous d'un petit marché où nos tomates se vendent en baril. Le démocrate de l'outre-mer exécute l'homme à tout bout de champ. Depuis le méchant et son coton, depuis Panurge chez nos moutons. J'ai perdu tous mes idéaux depuis que l'homme n'a plus de saison. Depuis que l'ego a pris le dessus sur le peu d'amour qui nous restait. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui foutent la merde. Entre les deux parties de golf, on fera des guerres qu'on a déjà vues. Les journalistes, les caméras sont toutes les mêmes qui sont déjà venues. On fera des films à Hollywood, le bien, le mal qui sera vaincu. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le dollar, sauvons Willy et son or noir. Droite, je te dirai gauche, si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche, si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que ces fous violeurs de terre. On fera des films pour quelques jeunes au pied du mur. Mon horizon, c'est ta prison, c'était peut-être ça leurs ambitions. On t'a fait croire que les droits de l'homme, c'était sûrement un homme de droite. Ma liberté, c'est la méfiance, c'est tout ce que j'ai pour filer droit. Je te dirai gauche, si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche, si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui foutent la merde. E allora, come imparare di nuovo a pensare in modo umano, meno ingannevole e soprattutto meno egoista? Forse con il sentimento urgente e vertiginoso della necessità di risvegliare l'umanità in ciascuno? Quello che a grandi linee ognuno di noi, che collabora per esempio a questa coraggiosa radio, tenta di fare, costruendo isole di ricerca dove elaborare i principi di un pensiero non mutilato, non mutilante, in uno scambio di conoscenze, cercando di bilanciare una certa radicalità ontologica con una certa precisione del pensiero politico, attingendo all'abbondanza e alla infinita pluralità delle cose, che sono ciascuna unica singolarità che alla fine nessun essere umano potrà mai padroneggiare completamente né inventariare totalmente, attraverso un linguaggio che nella sua essenza non abbandona il reale, ma al contrario mira a riscrivere una realtà in sintonia con il suo senso. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Bene, in un cosmopolitismo di idee e conoscenze diverse, immergiamoci nella molteplicità delle nostre potenzialità. E perché no? Anche per sottrarci ad un controllo istituzionale sempre più invadente, augurando ai controllori stessi che possano riuscire a sottrarsi al loro proprio controllo, autodeterminandosi in una nuova consapevolezza. Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trick. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic. Comunque, anche se è vero che non c'è progressione delle libertà dette reali nella perdita delle cosiddette libertà formali, non si discute purtroppo mai abbastanza sui temi dell'arte, della cultura e dell'educazione, perché a torto, ma fortunatamente non da tutti, sono considerati temi secondari o tutto al più degli epifenomeni. E proprio perché la situazione è grave, che questi momenti di riflessione sono giusti e necessari. Ma perché succede tutto quello che succede? Forse perché abbiamo dimenticato qualcosa di essenziale, il nostro spirito? Per questo io credo che il primo atto di insubordinazione debba essere una riflessione puntuale, appunto, su questi temi. La barbarie si verifica a causa della specializzazione di saperi sempre più tecnici. È una sociologia che vede in una società soltanto un processo di produzione e di organizzazione e cieca alla realtà degli individui e quindi alla coscienza, alla soggettività, al sentimento, all'amore, al gioco, all'umorismo. La vera insubordinazione è un nuovo modo di sentire le cose, più spirituale in tutti i sensi del termine e più solidale, colto, fraterno. Per un'altra politica occorre un altro pensiero per cercare insieme nuove strade. Non ci sono formule, nessuna ricetta. Tutto può iniziare da non si sa dove, dappertutto, anche da questa radio e da tutti quelli che la vivono,